La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Spazio in questa seconda puntata del mese di marzo, siamo già al quarto giovedì del mese, come di consueto insieme all'Ufficio Diocesano di Pastorale dell'Educazione della Scuola, oggi senza voci ma con tanti appuntamenti da segnalare, ricordando che nell'ufficio in Casa Pio X è stato attivato lo sportello telefonico per le scuole dell'infanzia. Ci si può rivolgere a questo sportello telefonico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, il numero 049 877 1744, chiedendo del signor Luca Fontolan, collaboratore dell'ufficio, che prenderà nota delle problematiche segnalate. Sarà poi il direttore Don Lorenzo Celi a ricontattare le scuole che chiederanno l'intervento, indicando qual è il soggetto competente a risolvere i problemi e l'eventuale procedura da seguire. Sempre allo stesso numero 049 877 1744 è possibile concordare un appuntamento, una visita dello stesso Don Lorenzo Celi alla scuola dell'infanzia della propria comunità. La visita dura un paio d'ore almeno, prevede un momento di preghiera con i bambini, l'incontro con il legale rappresentante della scuola e una delegazione del comitato di gestione, la visita poi alla struttura della scuola, il colloquio individuale con il personale docente e non docente. Questa struttura dell'incontro poi è modificabile a seconda delle esigenze organizzative. Anche qui si può mandare la richiesta compilando l'apposito modulo che si trova sul sito ufficioscuola.diocesipadova.it. Altre date che riguardano sempre il direttore Don Lorenzo Celi, con il calendario aggiornato sempre sul medesimo sito, sono le date dei colloqui appunto che lo stesso direttore sta facendo in programma proprio in questi prossimi giorni. Lunedì 27 all'Istituto Vescovile Barbarigo in città a Padova, con l'ICS Vittorino da Feltre di Abano, l'ICS di Cervezese Santa Croce, l'ICS Leonardo da Vinci di Mestre, l'ICS Ettoaldo di Montegalda, appuntamento lunedì alle 16.30, mentre il giorno dopo, il 28, al centro parrocchiale del Duomo di Monselice, sempre alle 16.30, Don Lorenzo incontrerà gli insegnanti degli istituti comprensivi statali Zanellato di Monselice, Tomaseo di Conselve, Moro di Due Carrare e Galliero di Tribano. Poi altri incontri sono in programma nel mese di aprile, appunto suddivisi sia per scuola di infanzia e primaria che per scuola superiore di primo e secondo grado, in particolare poi con gli insegnanti di religione. Ricordiamo che continuano anche i gruppi zonali intitolati Entusiasti di ciò che siamo, il sé professionale e la comunicazione educativa e didattica. Altri appuntamenti: domani dalle 16.30 alle 18.30 all'Auditorium dei Rogazionisti di Padova è in programma una giornata di studio su insegnamento della religione cattolica e percorsi di iniziazione cristiana con Don Giorgio Bezze, che è direttore dell'ufficio catechistico e per l'iniziazione cristiana, e Barbara Rossi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, domani dalle 16.30 presso i Rogazionisti a Padova. Per gli insegnanti delle scuole paritarie dell'infanzia invece l'appuntamento è sabato mattina, dalla mattina fino al pomeriggio, 9.30-16.30 all'Istituto Barbarigo, una giornata di studio sul tema essere insegnanti di scuola cattolica paritaria con Don Nicola Giacopini dello IUSVE e la stessa Barbara Rossi già citata. Più avanti, dopo Pasqua, per i dirigenti delle scuole presenti nel territorio della diocesi di Padova, sabato 22 aprile dalle 9.30 alle 12.30 all'Abbazia di Praglia ci sarà l'incontro annuale dei dirigenti scolastici col Vescovo Claudio sul tema La cultura che serve, scuola e chiesa si interrogano. Interverrà Andrea Porcarelli. Infine segnaliamo per il primo weekend di maggio, sabato 6 e domenica 7, per dirigenti e docenti alla Casa di Spiritualità Santa Dorotea di Asolo, l'esperienza di spiritualità, la dimensione sabbatica per un'ecologia della vita quotidiana. L'esperienza sarà guidata dalla biblista Suor Grazia Papola. Ricordiamo ricordiamo ancora il sito dove ci saranno altre informazioni, spunti, dettagli e segnalazioni: ufficioscuola.diocesipadova.it. La scuola si racconta in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.